Credo che sia interessante proprio visto dal punto di vista del consumatore, perché dal punto di vista dell'industria ovviamente tante, tante discussioni intorno alla piattaforma, ma che cosa vuol dire poi per chi va a comprare il telefonino basato su questo Android? Al momento abbiamo due aziende manifatturiere che fanno parte dell'alleanza, la Motorola e HTC. HTC che è diventato famoso per i telefonini basati sul sistema operativo della Microsoft. Come dicevo prima, uno degli svantaggi, se si vuole, dell'open source e di questa piattaforma così aperta è che è come un quadro bianco, una tela bianca che i vari operatori e aziende manifatturiere possono fare quello che vogliono, quindi possiamo anche aspettarci dei telefonini molto diversi, magari la Motorola penserà di utilizzare questa piattaforma per un discorso di telefonia più di mercato di massa, con ovviamente il focus intorno ai servizi che Google offre, quindi dalle mappe a IM chat a advertising e così via, quindi pubblicità su telefono, mentre HTC è più di solito focalizzato intorno a telefoni di alta fascia, come abbiamo visto per i telefoni della Microsoft, quindi magari qualcosa di un pochino più sofisticato a un prezzo più alto e un mercato più niche. I nuovi giocatori che arrivano dal mondo dell'internet stanno prendendo molto più passo. Abbiamo visto appunto Google con questa iniziativa, ma abbiamo visto anche Yahoo guardare a questo mondo, abbiamo visto YouTube, Skype recentemente che ha fatto l'accordo con Tre per avere dei telefonini Skype per fare appunto quello che fai normalmente su un PC, adesso su un telefono. Quindi questi sono i nuovi nomi che vediamo sempre di più nel mercato. Gli operatori mobili sono quelli che forse hanno più da temere, o quantomeno devono essere quelli più guardinghi, che cercano di capire che impatto questi nuovi nomi possono avere e, come dicevo prima, se così aver paura e cercare di fermarli o invece cercare di collaborare con loro. Certamente dal punto di vista del consumatore c'è un grande interesse per poter replicare quello che facciamo ogni giorno sul nostro PC di casa su un telefono quando siamo in movimento, e quindi è una forza che non riusciranno mai gli operatori a fermare, perché c'è proprio questa necessità dell'utente. Il problema è cercare di farlo in modo che per l'operatore ovviamente continui a generare revenue e che non li limiti a diventare soltanto una grossa bit pipe per la parte dati e niente intorno al contenuto.